Il primo risultato è, ancora prima della manifestazione, è quello che il workshop UNDERSEC, quindi che si doveva tenere tra tutti i partner europei e anche gli israeliani a Ravenna, proprio domani, è stato annullato. Questa comunicazione è arrivata sabato pomeriggio, il primo pomeriggio, subito dopo la nostra conferenza stampa sul canale social ufficiale del progetto UNDERSEC. La motivazione ufficiale è quella di che non hanno raggiunto il numero minimo di registrazioni, ma noi pensiamo che sia anche perché a Ravenna si sta veramente mobilitando tantissimo la popolazione, quindi insomma non sono graditi a Ravenna. La manifestazione è confermata perché non c'è stato nessuna dichiarazione da parte dell'autorità portuale rispetto a una sua votazione rispetto all'esclusione dei partner israeliani, quindi perché si sono riuniti, noi abbiamo saputo che si sono riuniti, hanno fatto un'assemblea generale straordinaria, i partner del progetto UNDERSEC si sono riuniti, non sappiamo che cosa hanno deciso perché si dovevano riunire anche per parlare dell'esclusione dei membri israeliani sulla base di due opinioni estremamente importanti, tirate dai docenti accademici di vari paesi europei. Questi accademici, tra l'altro, erano stati interpellati dalla stessa autorità portuale di Ravenna, che aveva chiesto una cosiddetta expert opinion, proprio per capire come ci si doveva porre nei confronti di questi enti israeliani, che ricordo sono il Ministero della Difesa israeliana, CAZ, quindi quello che proprio ieri ha postato un video dell'università, una delle università di Gaza City distrutta, che stava letteralmente collassando, minata da Israele, e lui se ne vantava. L'altro è Rafael Advanced System, un'azienda militare, e l'altro è l'Università di Tel Aviv. Si doveva votare l'esclusione di questi partner. In realtà non sappiamo se questa esclusione è stata votata e non sappiamo che cosa ha deciso di fare l'autorità portuale. Noi chiediamo che prima di tutto voti e dica chiaramente, pubblicamente, che questi partner israeliani non devono stare dentro il progetto e quindi si esponga pubblicamente l'autorità portuale. Seconda cosa, vogliamo che se appunto i partner non vengono esclusi dal progetto, l'autorità portuale si tolga. Questo per quanto riguarda appunto il caso UNDERSEC. Ecco, ricordiamo che il progetto UNDERSEC si occupa di sicurezza dei porti e quindi prevede anche la condivisione di informazioni sensibili, in questo caso con dei partner che sono responsabili di un genocidio. Esatto. Si tratta proprio di informazioni estremamente riservate, sensibili, proprio sulla sicurezza nazionale e la sicurezza dei porti. Si tratta di sperimentare delle tecnologie che comunque hanno anche un certo impatto ambientale, perché lo dicono gli stessi report, e peraltro il cosiddetto controllo, il comitato che controlla e che può in qualche modo censurare, far sì che dei documenti siano riservati e quindi non pubblici, è proprio il comitato di controllo che è costituito da autorità portuale di Ravenna, Ministero della Difesa israeliano, e poi ci sono l'autorità portuale di Lavrio, quindi greca, il Ministero della Difesa portoghese, la Guardia Costiera greca. Poi ovviamente noi protestiamo anche per tutto il discorso del transito di armi nel porto di Ravenna diretto a Israele, che ormai è diventato, cominciamo a scoprire varie punte dell'iceberg, ecco. Su questo vi hanno dato qualche risposta le autorità? No, perché ecco, fondamentalmente l'unica risposta ufficiale che appunto ho ricevuto tramite Cessa Iatti è stata appunto quella delle dogane, che diceva che il 30 giugno era passato un transito di un container classificato 1.4S, che è la classificazione per le munizioni, quindi esplosivi, dal porto di Ravenna diretto a Israele, proveniente dalla Repubblica Ceca. Io ho chiesto quale era l'azienda produttrice, anche perché in Repubblica Ceca c'è un movimento importante di attivisti che stanno lottando contro il traffico di armi, e quindi era importante anche per collegarsi a loro, per far capire a loro su quale azienda si dovevano, no, impegnare, e qual era lo spedizioniere e qual era l'azienda destinataria. Informazioni che secondo la legge 185 del 90 devono essere rese pubbliche. In realtà le dogane mi hanno detto che erano riservate. Io ho chiesto a questo punto al sindaco Barattoni di Ravenna e al presidente della regione Emilia-Romagna, De Pascale, di essere loro a chiedere queste informazioni, perché, come dire, un cittadino, una giornata, giornalista è facile magari dir di no, anche se non dovrebbe essere così, a un sindaco, un presidente della regione, che peraltro sono soci tra regione e comune, hanno una quota di almeno il 30% di Sapir, che Sapir è il principale gestore del terminal container di Ravenna. Anche come soci dovrebbero sapere che cosa passa nel terminal container. E quindi ho chiesto loro ormai circa 5 giorni fa e non ho ricevuto risposta, purtroppo.